24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina. Io piango quando casco nello sguardo del cane vagabondo, perché ci somigliamo in modo assurdo. Devo dire che mi fa molto soffrire vedere tanti che non si iscrivono più al PD, e quei tanti sono quelli che vengono da una storia di sinistra, e quindi quello che io chiedo al segretario del mio partito è quello di avere considerazione per queste storie, per questi militanti, per queste persone che hanno dato molto al nostro paese e che in questo momento... mi commuove perché la storia della sinistra è una storia molto importante in questo paese ed è stata vissuta, costruita con la passione, con la dedizione, con il volontariato da tante e tante persone. Quando casco nello sguardo del cane vagabondo, perché ci somigliamo in modo assurdo. Ora non bisogna mancare di rispetto a Livia Turco, il dramma di Livia Turco, che tutte le volte che appare in televisione ogni 3-4 anni piange. Non so, sarà... è la malinconia, come cantava Califano, non lo so, sarà lo sguardo di qualche cane vagabondo che ha incrociato in studio. Ma vabbè, piange Livia Turco perché la gente non si iscrive più al PD, e soprattutto perché vede così tutta questa storia della sinistra, evidentemente, non so, non valutata abbastanza da Renzi, un po' svalutata, un po' sorpassata, un po' rottamata, non lo so. Vabbè, Livia Turco piagne. Ma piango, io piango sulle nostre vite, due vite violentate. A noi risposte mai ne abbiamo date. No, non è che mi volevo gettare nella tristezza, eh. Questa è 24 mattino, sono le 6:32 minuti. Saluto Lorenzo Nespoli in redazione, saluto Peter Bescapè in regia. Allegri, allegri! Allegri, non quella. Vabbè. Senza viole. Oggi come la dico la spalla? La prima senza viole. Grandissimo Califano. Ragazzi, ma ha sbagliato una canzone mai Califano? Un grandissimo. Vabbè, vabbè, allora, dai, apriamo il Parlamento, qua se piagne, che dobbiamo fare? Adesso vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi, grazie. Ci vediamo più tardi col ministro Boschi. Allora, voglio intanto salutare un ritorno, una giornalista, una conduttrice radiofonica, una conduttrice televisiva, una scrittrice, una mamma di 4 figli. Lia Celi, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, ma adesso la domanda è, ma Califano ha mai fatto una canzone allegra? Ma è struggente. Non mi toccare Califano, su. No, ma già Cruciani ci fa concludere la giornata con tutto il resto è noia, sì. E tu col cane vagabondo ce la fai iniziare proprio con le lacrime di Livia Turco. Abbiamo già le precipitazioni che fanno esondare i fiumi, tu le lacrime di Livia Turco. Erano lacrime tenerissime, dai, erano lacrime tenerissime. Comunque, cara Lia, come va? Tutto bene? Tutto bene, però è stato un colpo basso veramente. Ti presento con le lacrime di Livia Turco, mi hai fatto ricordare la nascita del, che cosa? Del PDS, la fine del PC, quando i dirigenti dell'ex PC piangevano, che le lacrime di quella generazione lì, di quella generazione, dei dirigenti che piangevano, è vero, Occhetto che piangeva, rottamava il PC e piangeva. Vabbè, ma ti voglio presentare Lia Celi, la direttorissima, sempiterna direttorissima per noi, Aurora Lussana, buongiorno. buongiorno. Buongiorno, buongiorno direttora, Mina, per, buongiorno se, per sempre, sempre. Per sempre. Un carissimo saluto agli amici di Radio 24, padani e non. Ma tutti. Possiamo anche dire nazareni e non. Nazareni sì. E non. Radio 24 sì. Che è pur sempre la seconda radio più amata dopo Radio Padania Libera. Ovvio. Tu ascolti mai RPL 103.5, li accedi? Non so se hai capito, RPL Radio Padania Libera, RPL 103.5. La sto ascoltando io. Hanno un po' copiato. Stai ascoltando Radio Padania? A Radio Padania Libera, ecco, l'acrostico mi era sfuggito. Sì, ecco, RPL 103.5. Hanno copiato un po' così. No, che poi dipende, io ce l'ho qua all'89, sono in macchina a far benzina, sto sentendo Radio Padania sull'89. Ho capito, no? Ma tu sei su Radio 24 e ascolti Radio Padania, cioè, ma... No, ma perché va bene, non è che sono un maschio che non riesco a fare due robe insieme, riesco a parlare con Radio 24 e ascoltare. Mamma mia, Lia, di qualcosa a te. Ah no, tu è vero, sei quattro figli. Cioè, stai facendo una colazione intanto. Poi i miei figli mi obbligano a sentire queste radio piene di playlist di teen idols, come si dice, quindi. Non cioè, so se ci sono per esempio? Teen idols padani tipo Ariana Grande di One Direction. No, non credo che abbiano, sono più sulla musica celta. Più sulla musica. Vabbè, cosa dicono a Radio Padania adesso, Aurora? Cosa stanno dicendo? C'è un radioascoltatore che sta interloquendo con Sammy Varin. Cos'è che sta facendo? Sta parlando con c'è un radioascoltatore che sta parlando con Sammy. Ha uno cos'è? Straniero. Sammy Varin. Sammy Varin. Oh, salutami Sammy Varin. Ecco. Cos'è che è un giargianese? Sì. Come parli? Penso che stia pubblicizzando un pranzo di Radio Padania che costa 35 euro, non 1000 euro come pranzo di lezioni dirette. Ah, vabbè. Sì, che basso, tiro giù. Sì, ecco, abbassa Radio Padania, grazie, l'ascoltiamo dopo. Sì. No, Lia, tu volevi ascoltare un po' di più. Visti i prezzi c'è anche Cooperlo, secondo me, il pranzo di Radio Padania. Lui vorrebbe 20 euro, ma vorrebbe... È vero, è vero. Cooperlo invece preferisce i pranzi da 20 euro. Vabbè, ma comunque Livia Turco piange, ma soprattutto, cara Lussana, ti faccio sentire una Livia Turco che quando invece non piangeva e ha riconquistato il suo piglio piemontese, sabaudo, di quelli con... Turco napoletano. Eccola lì, guarda, subito che aggredisci. Eccola, Livia Turco, senti, è sugli immigrati. Sentila qui. È certo. Sì. Smetterla di prendersela con questa storia degli immigrati, perché noi abbiamo in Italia 5 milioni di immigrati che sono integrati e rispetto ai quali noi dobbiamo dire grazie, perché se non li avessimo nelle nostre famiglie a curare i nostri anziani, sono tutti gli altri. Capito? Capito? Noi saremmo molto più arretrati. Oh, forza, di un grazie anche tu a tutti gli immigrati. Sì, propaganda sull'immigrazione. Adesso il reato di immigrazione, di propaganda filo immigrazionista. Sì, di sì, grazie. È apologia filo immigrazionista questa. Forza, di grazie agli immigrati. Vabbè, gli immigrati regolari, ma i nostri nemici, Mila, non sono gli immigrati, dai, lo sai anche te, è chi sta lavorando per una società multietica che crea i disastri che stiamo vivendo, e vuole sradicare i popoli da casa loro e mettere in discussione la nostra identità, così hai un popolo spaventato, impaurito, te lo dico anche io, guarda, illuso dagli 80 euro, no? Perché è l'oligarchia al potere che vuole questi disastri sociali. Lia, io sono un po' preoccupato a questo punto Lia, tu sei un po' preoccupata? No, veramente no, io sono sempre ottimista e positiva, mi rendo soltanto conto che l'Italia non riesce a gestire l'immigrazione esattamente come non riesce a gestire tante emergenze e problemi drammatici del nostro tempo. Ieri sera su Rai Storia riproiettavano Le mani sulla città, Francesco Rosi, anni 70, dove si parlava di abusivismo edilizio e di crolli, 50 anni dopo siamo ancora messi come siamo messi. Quindi, ma allora che ci sia un problema di gestione dell'immigrazione, ma chiaro Aurora, ma se tu, Aurora, come a Tor Sapienza, se tu prendi delle persone che peraltro magari hanno diritto a tutto, a tutte le loro pratiche di essere considerati Hanno anche dei doveri, perché sono ospiti ma di Milano. Ma d'accordo, ospiti, ma certo che hanno dei doveri, ma certo che hanno dei doveri. Mica anche gli italiani, fra l'altro. Voglio dire, tutti, doveri, tutti. Sì, sì. Però se quelle persone, cioè adesso quelle persone lì che sono lì, magari alcune di loro non stanno facendo niente, sono qui nella speranza di diventare... Ma lo sai chi vuole la società multietnica? Chi è che la vuole? Chi vuole un mondo indifferenziato, omologato, che schiaccia gli individui e i popoli, ok? Quindi chi vuole una società, in qualche modo diciamo di un capitalismo, meglio di un turbocapitalismo, che annienta gli individui. Perché tu quando non hai più il senso della comunità, sradichi i popoli da una parte, metti in discussione la nostra identità dall'altra, non hai più delle comunità. Hai degli individui devastati che non hanno il senso della comunità. E quindi vince un'economia turbocapitalista. Turbocapitalista, cioè e mi chiudono la Padania, cioè voi capite come, come fate? Ma perché lì a Celi, ma facciamo qualcosa per... Io penso a un paese così privo di identità e multietnico come gli Stati Uniti, per dire, dico vabbè, se possiamo essere multietnici. Ma infatti, perché gli autoctoni infatti li hanno massacrati, mi pare. Eccola lì, gli indiani sarebbero gli autoctoni. Sì, sarebbero i veri nativi. Guarda che è una che si sveglia via Celi, guarda che Aurora Lussare si sveglia e guarda L'ultimo dei Moicani, è proprio come film, alle 6 del mattino si mette lì e guarda L'ultimo dei Moicani. Anche lei è un po' L'ultima dei Moicani di Radio Padania. Va bene, fammi sentire un attimo Radio Padania, cosa mette in uno specchio. È questa Aurora? Minimo, conoscendo Aurora, è questa Radio Padania? Di sicuro, se riesce. Vedi, ma noi siamo cross mediali. Ti piace? Cross mediale. Se vuoi, mi spengo e mandiamo in onda Radio Padania. No, non lo so. Cioè, a questo punto, cosa vuoi fare? Facciamo un'occupazione. Occupai Radio 24. Vuoi. Occupazione abusiva? No, l'occupazione abusiva. Però, allora c'è qualcuna che è andata dagli immigrati a Tor Sapienza. Oh, ragazzi, qua tutti vengono trattati male. Non è che arriva quella del Movimento 5 Stelle lì. Hai visto che è successa a Paola Taverna? Quella siete niente, urlata in Parlamento. È andata a Tor Sapienza ed è stata accolta così dalla popolazione. Movimento 5 Stelle che cos'è? Non è un movimento politico. Non me voglia politico. Io ci sono sempre. Non me può chiamare politico, Lia. Si arrabbia tantissimo, la cosa è proprio come deve essere dato della stronza. Non me può chiamare politico a me. Ma l'unica minoranza etnica che viene veramente vessata e discriminata ormai sono i politici, quindi anche c'è stato un fronte comune fra politici e fra indigeni, diciamo così, immigrati contro Paola Taverna. Quindi forse l'intervento dei politici potrebbe servire a coalizzare, a creare un terreno di intesa fra... No, ma è incredibile, la senti, la Taverna, cioè proprio oggi fa un'intervista al Fatto Quotidiano, ha detto non ci ho visto più quando mi ha chiamato politico, io non ce potevo credere, ecco, tutto mi poteva dire, ma politico a me no. No, non vogliamo esponenti politici. Perché sono esponenti politici? È il Movimento 5 Stelle che ha la Caritas. Ma che risulta che io da qualche scuola vengo a fare politica per farmi cazzi miei o per i soldi? Ma perché, ma scusa un attimo, ma fino a lunedì, ma indossavo? Ma io non indossavo, ma stavo indossavo. Va bene. Senti come parla come una del popolo, Aurora. Che proprio come... Cioè, Andarella. Con quello che gli ha detto, che è il Movimento 5 Stelle, che è a Caritas. Senti. Io non so politico. Però Aurora, guarda, peccato che una grillina, ma una bella combattente. Beh, dai, ma la Paola Taverna, ma che scherzi. Sì, secondo me l'apprezzeresti tantissimo. Una che è andata in Parlamento a urlare a quelli del Parlamento: Voi siete niente. La marchesa del grillo è praticamente più o meno. Vabbè Aurora, ma che dovremmo fare gli immigrati? Ma io, guarda, ieri avevo Bitonci ospite. Io ci parlo con i leghisti. Ma sì, è un bravissimo sindaco, non lo so, lo giudicheranno i padovani, io sono di Milano. Ma per te... Perché ti piace Pisa Pia? No, a me... sei troppo preparato, troppo intelligente. Io non ho votato Pisa Pia e devo dire, non è che mi piaccia tantissimo, ma io credo che fare il sindaco sia il mestiere poi più difficile davvero, perché ha a che fare con le beghe quotidiane, davvero. Ma infatti tutti molto meglio poi passare da sindaco a fare il premier, come ha fatto Renzi, che è molto più semplice. Ma... No, però insomma, Aurora, ma che dobbiamo fare con questi, cioè questa cosa del dire blocchiamo le frontiere, cantiere, aiutiamoli a casa loro, basta. Ma cioè, è ferma, è come, voi volete, chi era Sant'Agostino, cos'è che voleva svuotare il mare col cucchiaino, cioè. L'immigrazione non è un evento ineluttabile, ineludibile. Ma chi l'ha detto? Ma nel 2015, ma è da sempre, i popoli migrano, i popoli si spostano. Mira, posso farti una domanda? Tu sì. La sera, sì, quando entri a casa, chiudi sì. La porta di casa tua e la lasci aperta? Ma certo che la chiudo, ma la chiudevo anche 30 anni fa che non c'era. La chiudevo anche 30 anni fa che non c'era nessun giargianese, come li chiami tu? Dai! Ma nel senso che tu a casa tua puoi accogliere un certo numero di persone, giusto? Se no non le sai ospitare degnamente. Se ti arrivano 100 persone stasera a casa tua, cosa gli fai? Anche fare una polenta veloce non basta. Vabbè. Eccola. Sono... L'accoglienza va organizzata per il bene di chi viene accolto, sì. E per il bene degli oriundi, dei nativi, di chi vive. I moicani. Andiamo a sentire il traffico. Poi c'è la segreteria telefonica. Guarda, Aurora, che qualcuno in segreteria telefonica, te lo preannuncio, è un pochino felice del fatto che tu perderai il posto di lavoro. Sì, accetta con poco, dai, va bene, sentiamo. A Milan io voglio sentire il traffico 24 mattino. Caro Alessandro, ricordati bene che chi ruba fa la roba e chi lavora fa la gobba, e per me le tasse è come pagare le tangenti. Ciao Ale, sai cosa si vuole in Italia? L'uomo di ghiaccio, il grande Putin. Milan, tu che pensi di essere il superuomo, lasciala stare la tua pupilla Lusciana, ormai non conta più niente. Milan, lo so che sei lì per guadagnare una ciotola di minestra per portare a casa, ma non hai coglioni per mandare in onda tutte le telefonate. Mandi soltanto le telefonate che fanno ridere quegli altri scemi che stanno ascoltando, tra cui anch'io. Ascoltare quello che dici. Ascolta Matteo, ma anziché cambiare l'Italia e poi cambiare anche l'Europa, fa una bella roba, ascolta me, vai a lavorare. Caro Milan, ti pongo un quesito. Tu compreresti la Panda usata da Marino o da Alemanno? Pensaci un attimino. Carolino, puoi dire a Lusciana che da dicembre, visto che sarà disoccupata, posso assumerla come cuoca nel mio ristorante, però dovrà cucinare solo piatti napoletani. Cara Aurora, hai un futuro. Mi dai il numero? Dopo te lo do. Dopo te lo do. Dai, su. Però che piatto napoletano conosci? I cialatielli. Ecco. Tu, no, perché lì devi capire che Aurora ci dà sempre la ricetta padana in genere, cioè non sono robe mai tipo kebab, couscous. No, sono quelle cose lunghissime a cottura, la cassola, queste cose leggine. Sì, comunque, vabbè, insomma, avrai un futuro. Sì, però anche questa visione che il nord è la cassola mi sembra abbastanza riduttiva, nonché folcloristica e macchiettistica, ma va bene, cioè siamo abituati a questi ignomini, al disprezzo e anche... Ma la diciamo, cassola, Ma che dire che è pesante? Vabbè, è un po' pesante la cassola adesso. Ma in padane devono nutrirsi. Capito. Ha ragione un bel muratore bergamasco, cioè che lavora e quando picchi con la mangiare è una bella per piatto di cassola. Lo digerisce in due minuti, cara Lia. La quinoa deve mangiare su. Vabbè. Mescolare la polenta a dovere è un'alternativa al bodybuilding e rinforza i muscoli dell'interno braccio. Pare che anche Michelle Obama lo faccia. Effettivamente sì, la polenta. Tu la fai a mano, Aurora, la polenta? Sì, tranne stasera che vado, inaugurano praticamente lì in Duomo una sì. Polenta takeaway, polentone o polento anche, dir si voglia, che è alla spina. Polenta alla spina. E poi crei quello che vuoi. Sì, polenta takeaway. Vabbè, comunque siamo già alla ricetta. No, io devo farvi sentire una cosa. Io ho questa passione per la voce di Maria Elena Boschi. E, Marina Boschi. Perché si è tratto delle donne di potere, vedi, non le dalle donne del popolo. Ma smettila. Lia, sì, la voce. Ma l'hai mai sentita Marina Boschi come canta quando parla? Vabbè, comunque è andata dai bambini in una scuola. Sentite, dai, Marina Boschi, sentiamo adesso. Voi siete pronti? Siete in forma stamattina? Sì. Vi siete preparati con le vostre maestre, con i vostri insegnanti, i professori? Ah, ma dai, ma chi non avrebbe una maestra così, Lia? Alla grande. Eh? Che vocina, veramente, la fatina di Pinocchio. Ma guarda, non dirmi che è Pinocchio, perché non voglio allargare il discorso. Ma no, ma guarda, ecco Aurora Lussana, come ti permette di ridere? Ah, scusa, ma è come nel nome della rosa, no? Non si può neanche ridere. Esatto, come ti permetti? Subito. No, io lo sai, ho una passione anche per lei, questa donna angelicata. Io sono una donna Petra, quindi apprezzo sia la sua dizione meravigliosa, perfetta, a differenza della mia. Però credo che anche lei, insomma, sia molto utile all'oligarchia al potere. Allora, ecco, siamo sempre lì. Oh, niente, c'è questa ossessione lì dell'oligarchia al potere che niente, non l'abbandono. Sì, se l'oligarchia è caduta come Maria Elena Boschi, io devo dire, insomma, diciamo che diventa più accettabile. Più accettabile. Io sono una fan di Maria Elena Boschi perché sotto questo aspetto angelico ha veramente una fibra di acciaio temperato. Ma per concludere dovete dare un voto, preparate la paletta da 0 a 10, come è migliorato, se è migliorato Renzi in inglese, in Australia, sentitelo! I hope Italian politician will be on time, this is a different question. Is a question regarding our system, our electoral system. But this is clear. Let me be very frank with you. If this project could be a link between our people and also our countries, also quello. Ora c'è sempre. Vabbè, dai. It was a worker. So rispetto a questo era qualche mese fa e le fecero una mitica canzone. Palette pronte, Lia Celi, voto all'inglese di Renzi oggi, Io gli do un 6 politico, essendo sei un politico. 6 politico, poi comunque insomma, diciamo che l'inglese australiano è considerato nella scala degli accenti inglesi il peggiore, quindi forse lì si mette. Ah, lui ha fatto l'accento australiano. Ha sempre sentato così, faccio l'accento australiano. Ecco, infatti è un puro accento australiano. Come il mitico Fantozzi. Voto di Aurora Lussana da 0 a 10. Bye. Al nostro parolaio sempre un 10, ecco, come parole, parole imbattibile. Parole 10. No, però dai, non ha bisogno Renzi di andare in Australia per essere agli antipodi di un premier, insomma. Vabbè. Aurora, che dire, la ricetta ce l'hai già data stasera, polenta alla spina? No. Sì, polenta alla spina stasera. Polenta alla spina. Takeaway. Sì, ma insieme non è facile resistere con questi takeaway stranieri, quindi aiutiamo i takeaway autoctoni. Capito, ma la cosa col kebab, col kebab, esatto, perché da sola no, con un kebab a fianco. No, non bestemmiamo alle 6. Mamma mia, ma un kebab! Te lo sei mai mangiato un kebab? No, fai una confessione. Hai mai mangiato un kebab? Sì o no? Oddio, sai che non credo. No, mai. Comunque guarda che anch'io mi sono sbagliato. Mi sa che ho votato Pisapia in realtà, ma non me lo ricordo più. Ma fine trasmissione proprio, Prima ci stavo pensando, ma credo di avere votato Pisapia in realtà. Io ho fatto outing che non ho mai mangiato kebab e poi outing che ho votato Pisapia. Ma invece hai mai mangiato il couscous? Sì, quello sì. Oh, vedi? No, quello di verdure, credo nel sud della Francia. Non vale. È pur sempre couscous, tu chiamalo come vuoi, ma hai solidarizzato con la cultura araba con questo. Va bene, ma vi devo salutare. Grazie, alla prossima. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Vabbè, c'è stato qualche piccolo problema con il traffico, ma lo recupereremo, statene certi. Sono le 7:18 minuti, allora, razza di debosciati, che state facendo? Pronti? ad ascoltare la rassegna stampa, pronti ad ascoltare anche i nostri temi. Oggi parleremo sì, di reati. Beh, ieri il Sole 24 Ore raccontava che i delitti sono aumentati, come denunce, non di tantissimo, sono aumentati soprattutto però i furti nelle case e gli scippi per strada. Parleremo di questo, ma parleremo anche del fatto che si vogliono cancellare tutta una serie di reati cosiddetti bagatellari, quelli minori. Perché? Perché tanto le persone non riescono, in questa giustizia molto rallentata, molto lenta, non riescono a essere processate. Quindi tanto vale togliere alcuni reati, non processare per alcuni reati. È in arrivo, in discussione, un decreto legislativo da parte del governo su questo. Ne parleremo mettendo insieme queste due tematiche dalle 8.15 con ospiti, ma ora andiamo a leggere i giornali. In questo martedì 18 novembre i titoli, intanto il Sole 24 Ore apre sul maltempo, il titolo è questo: piano antidissesto subito, 700 milioni alle grandi città. E mentre le aperture oggi sono diversificate dei vari quotidiani, il Corriere della Sera apre su Draghi, fate poco, non si cresce, questo è il titolo, mentre Repubblica, Jobs Act, scontro nella maggioranza, Draghi pronti a comprare titoli di Stato. Mentre per La Stampa, alluvione, licenza di spendere, il Fatto Quotidiano, condoni alluvioni, politica criminale. Il Secolo XIX, alluvione, subito i lavori. Mentre Il Messaggero torna su Draghi, crescita, l'ultima carta di Draghi. Anche Avvenire apre così il rilancio di Draghi. Ci sono poi Libero, Salvini sfida Berlusconi, con la Lega già oltre il 10% nei sondaggi. Il Giornale invece è Renzi che fa acqua, è maltempo politico. Vabbè, ma voglio partire da altre notizie, come notizie di cronaca. Che è successo ieri a Milano? Ieri a Milano si voleva sgomberare la casa occupata abusivamente da una madre di due bimbi. La polizia è arrivata, parte della popolazione si è ribellata e la polizia ha preso le pietrate per impedire lo sgombero. Sassi, estintori contro lo sgombero. Questo pagina 2 del Corriere della Sera, giornale che da giorni sta puntando una campagna su questa tematica socialmente molto molto sentita, soprattutto nelle periferie delle grandi città. Ed ecco qui, sono Andrea Galli e Gianni Santucci che da giorni raccontano questo dramma e raccontano oggi a pagina 2 sulle orme della Zarina, donne in prima fila ad accendere la rivolta. La chiamano così in alcuni casi, come nel quartiere di La Barona, la regina nera. Abusa dell'autogestione della quale presidente governa la mappa degli appartamenti sfitti come un piccolo impero. Oppure c'è la Zarina dello Stadera, scrivono così i fascicoli dei commissariati di polizia. Batte lei tutti i record di occupazione, custodisce le armi della malavita. Poi ci sono le furie del Corvetto, che in casa avrebbero fatto sparire ogni traccia di assalti squadristi, come quello una settimana fa contro un circolo del Partito Democratico affollato di anziani. Sono soprannomi, raccontano di periferie, cronache di battaglia e di donne, donne cattive o ribelli, come quelle italiane che ieri sono scese in cortile per impedire lo sgombero di un'altra italiana, abusiva, ma anche in maggioranza donne vittime, perché il racket si serve di loro e le spegne lentamente. Questo è il racconto delle periferie, in questo caso la periferia di Milano. Ieri Sassi e estintori contro lo sgombero. E tra l'altro a pagina 3 il Corriere della Sera racconta con Fiorenza Sarzanini il disagio delle forze dell'ordine, gli agenti in piazza che dicono: noi siamo bersagli ormai di una rabbia cieca, una rabbia che non è nei confronti delle forze dell'ordine, o meglio, in quel momento le forze dell'ordine rappresentano lo Stato, ma c'è anche questa foto proprio in prima pagina di una donna che urla e racconta al Corriere della Sera, urla di tutto, insulti ai carabinieri che sono lì immobili poco prima del tentato sgombero poi fallito, proprio perché ci sono stati i lanci di pietra, addirittura di estintori. Ma risulta che da oggi si ritornerà, come dire, è brutto usare questa espressione, alla carica per cercare di far ripristinare la legalità, e cioè fare sgomberare le case che sono occupate. Ma d'altronde la situazione è questa, ne ha fatto le spese a suo malgrado anche la senatrice Paola Taverna del Movimento 5 Stelle. Avete sentito, abbiamo fatto sentire anche noi questo video, questo audio di lei che va a Tor Sapienza pensando di dire: io non sono una politica, no? Mi accoglierà. Invece è stata accolta come gli altri politici: non vogliamo la politica. E lei che dice: ma io non sono politico. E quelli che gli dicono: e che è il Movimento 5 Stelle, che è a Caritas. E vabbè, è finita male, tanto che i titoli dei giornali sono proprio questi, anche per il Messaggero: Tor Sapienza contesta il Movimento 5 Stelle. E anche il Fatto Quotidiano: Tor Sapienza, Movimento 5 Stelle sgomberato, tanto che Paola Taverna fa questa intervista, pagina 7 del Fatto Quotidiano, intervistata da Paola Zanca, dice: ma te rendi conto? Ma come si fa? Mi fa male, mi fa troppo male. E che cosa, senatrice Taverna? Il fatto che mi abbiano chiamato politico. Se ne va con la più infamante delle accuse, racconta il Fatto. Fa la politica. Non sono andata lì a fare passerelle. Io capisco la gente, ma volevo provare a spiegare che è inutile lanciare i sassi contro 30 ragazzi che stanno messi peggio di loro. Io li capisco, sono arrabbiati, delusi. Ma la cosa che mi ha fatto più male è quando mi hanno chiamato politica. Lo dice come se fosse proprio l'insulto più sprezzante, no? Ho capito che loro mi vedevano come una dall'altra parte. Proprio voi, chiede il Fatto, che eravate i cittadini eletti. Io non lo so quando è successo, risponde Paola Taverna, che siamo diventati come gli altri, ma mi fa male. Mi fa male perché mi rendo conto che tutto quello che faccio lì dentro non passa. Ma come l'apriscatole, uno vale uno, non ha funzionato niente. Con Renzi non esiste più nemmeno il Parlamento. Che ci inventiamo? Forse abbiamo sbagliato anche noi a decidere di entrare nelle istituzioni. Dovevamo fare la rivoluzione, non lo so. Il sistema è riuscito a omologarci, nonostante ce l'abbiamo messa tutta, non lo so. Sono triste stasera. Insomma, scoramento più totale per Paola Taverna. Così, accolta al grido di politica, vattene dalla popolazione di Tor Sapienza. Comunque, udite udite, nonostante le promesse di cambiamento, secondo il Messaggero, anche quest'anno a Palazzo Chigi i dirigenti prenderanno tutti il bonus produttività. Lo racconta il Messaggero a pagina 5. Palazzo Chigi, ritornano a pioggia i premi ai dirigenti. Per Matteo Renzi era una bandiera, racconta Francesco Bisozzi, un po' come il taglio delle ferie magistrate, quella di legare i premi dei dirigenti pubblici al PIL. Alla fine, invece, il Premier si è dovuto arrendere. Dopo che la norma era stata stralciata dalla riforma Madia, è scomparsa pure dalle regole interne della Presidenza del Consiglio. E dunque, anche quest'anno, come l'anno scorso, 99% di dirigenti premiati. Io vorrei conoscere quell'1% di dirigenti sfigati che non ce l'hanno fatta a Palazzo Chigi. Comunque, come verranno valutati i dirigenti per l'80% del loro lavoro con gli stessi criteri dello scorso anno? Manca un 20% con una novità. Ed è questa la novità. Udite, udite, per essere valutati. Da parte dei dirigenti dovranno spedire entro la fine di dicembre una mail contenente una serie di proposte volte a semplificare i processi della Presidenza del Consiglio. Se faranno questo, con delle proposte, una mail, propongo questo, questo, questo, questo, per semplificare le procedure della Presidenza del Consiglio, 5.000 euro di bonus per questa mail. È una proposta e va bene, chissà se lo faranno. Va bene, intanto siamo però a che cosa? Beh, al premio Mani sul volante, l'articolo che ci fa più incazzare di questa giornata. Noi abbiamo cercato per oggi, forse non ce l'abbiamo fatta, forse lo avremo in onda domani, lo spero, e rinnoviamo a lui l'invito, il presidente di questa associazione che raggruppa tutti gli ex consiglieri regionali, che ha fatto una lettera spedita al Presidente della Repubblica dicendo che non si possono tagliare i vitalizi come diritti acquisiti a tutti i consiglieri regionali ex. E oggi vince su questo il premio Silvia Mastrantonio, il quotidiano nazionale, che intervista Francone Fiorito, ve lo ricordate? Franco Fiorito nel Lazio, che sta scrivendo un libro, uscirà per Chiare Lettere, si intitolerà Il Sistema, e lui dice: ma che Batman, sono un fagiano, sono l'unico che non prenderà il vitalizio, hanno fatto una legge apposta per me nel Lazio che esclude i condannati a più di 3 anni. Pensate, hanno fatto una legge che esclude i condannati a prendere il vitalizio, clamoroso, come dire. Don Alejandro Milan è il soro dell'informazione. Vabbè. Allora, prima, quando siamo usciti nella pubblicità, c'era un urlo liberatorio del nostro Oscar Giannino, che diventerà il nostro mantra quando racconteremo queste notizie. Com'è che è quest'urlo? Era, come dire, sfumato, pacato. Cos'è che dice? Ah, ecco, si è capito un po' meglio. Ladri, detto in maniera così pacata dal nostro grande Oscar Giannino. Vabbè, torniamo alla lettura dei giornali. Che succede per il maltempo? Arrivano i primi soldi. I primi 700 milioni alle grandi città. Questo è il titolo del Sole 24 Ore, pagina 3, l'apertura del Sole. In attesa del piano da 9 miliardi che ci ha annunciato anche il ministro all'ambiente Galletti venerdì scorso qui a questi microfoni, sono state stralciate 7 aree, che sono le aree delle grandi città metropolitane, cioè Genova, Milano, Firenze, Roma, Torino, Bologna e Cagliari, e lì arriveranno 700 milioni. Per la verità, i primi milioni disponibili sono solamente 116, meno del 17% di quello annunciato, ma per i restanti 573 milioni il governo sta cercando fondi strutturali europei, finanziamenti BEI e soprattutto candidatura al piano Juncker da 300 miliardi per gli investimenti europei. Quindi 700 milioni sono l'annuncio, 116 ci sono già subito, scrive il Sole, per gli altri si stanno cercando. Intanto il sottosegretario Del Rio ha fatto suo l'appello in qualche modo del presidente del Piemonte Chiamparino un paio di giorni fa, dire niente patto di stabilità per le città colpite. Davanti ad eventi catastrofici cadono i vincoli. Così il sottosegretario Del Rio, che ieri era in visita in alcune delle zone più colpite. Il titolo di Libero è così: Del Rio ai sindaci, fregatevene dei PM. E il titolo è abbastanza, come dire, emblematico, però il titolo è questo. Il problema è che ci sono già alcune reazioni. Per esempio, La Stampa mette a pagina 3 con Nicola Pinna l'intervista al sindaco di Olbia. Un anno fa ci fu un'alluvione terribile, 19 morti a Olbia. Il governo ci aveva assicurato la deroga al patto di stabilità un anno fa, ma Olbia, colpita dall'alluvione che aveva provocato 19 morti, quei fondi non sono mai stati sbloccati. Eccolo qui il sindaco Giovannelli che racconta La Stampa: è la stessa promessa fatta a noi, ma stiamo ancora aspettando. Il sottosegretario Del Rio annuncia una deroga al patto di stabilità, la stessa promessa a noi. Il presidente del Consiglio allora era a Letta, era venuto ad assicurarci, a dirci che i nostri fondi, sottolineo nostri, sarebbero stati sbloccati immediatamente. Invece, nonostante la situazione drammatica, non ci ha neanche permesso di spendere le risorse che avevamo in cassa. A ottobre, cioè 11 mesi dopo l'alluvione, ci hanno consentito di spendere a malapena 5 milioni e ne avevamo a disposizione 50. E una cifra del genere in un momento di difficoltà sarebbe molto utile. Come li avremmo spesi? Abbiamo commissionato uno studio per la mitigazione del rischio in tutta la nostra città. Il primo step prevede 30 milioni di investimento e almeno una parte. Quella parte avremmo potuto avviarla immediatamente. Insomma, il sindaco di Olbia dice: di soliti annunci anche a noi avevano detto deroga del patto di stabilità. Risultati: poco più di zero. Capite che poi uno dice le cose non cambiano mai, ma non è che lo dice a vanvera, ci sono persone che confermano quotidianamente che così è in questo irriformabile paese. Libero invece si concentra su una vicenda che riguarda Burlando e la Liguria. Giacomo Amadori racconta in prima pagina e poi continua a pagina 7: stoppa il cemento rosso e il PD la silura. Succede una dirigente del comune della regione di Genova che è stata mandata via, è la dottoressa Nicoletta Faraldi, racconta Libero, trasferita d'imperio al Dipartimento Salute e Servizi Sociali perché indaga una consigliera del gruppo misto Raffaella Della Bianca, che spiega: ho scoperto che il 21 ottobre la dottoressa Faraldi aveva bocciato una variante al piano regolatore a cui la maggioranza teneva molto. Era una modifica richiesta che riguardava un'area di circa 4 ettari in riva a quel bisagno esondato un mese fa, causando un morto, e di cui Burlando è commissario ad acta per la messa in sicurezza. E chi c'era dietro a questo piano, secondo Libero, la Coop Liguria, attraverso il suo braccio immobiliare, la Talea SPA, che nel 2010 ha acquistato l'area per 25 milioni. Secondo dunque Libero, una dirigente della regione Liguria boccia il maxi progetto di una Coop lungo gli argini del Bisagno, parlando di pericolosità idraulica elevata. Poco dopo, l'assessore allo sviluppo della regione la trasferisce d'imperio. Questa è la denuncia di Libero. Vabbè, leggete dunque gli articoli sul maltempo e poi siamo sempre qui al prossimo diluvio. Intanto, si litiga sulla legge elettorale, io non ci voglio credere. Oggi, quando ho letto questo titolo di Repubblica, Italicum, le trappole del Senato per far saltare il sì prima di Natale. Basta, siamo all'81esima settimana decisiva per la riforma elettorale, comincio ad annoiarmi anch'io. E poi si litiga sul Jobs Act. L'apertura di Repubblica la mette così: c'è ormai una versione hard e una versione soft. Non stiamo parlando di un film porno, ma del Jobs Act. Scontro sui licenziamenti, c'è un emendamento del governo che fa infuriare quelli del nuovo centrodestra, è un nuovo scontro nella maggioranza. Il sottosegretario al lavoro Teresa Bellanova annuncia un emendamento governativo sull'articolo 18. Contro l'emendamento che avrebbe dovuto riprendere l'accordo tra governo e minoranza PD si scaglia il capogruppo del nuovo centrodestra Sacconi, dunque lite all'interno del governo, minacciando l'abbandono della commissione e l'apertura di un bel contenzioso nella maggioranza. Poco dopo, il sottosegretario al lavoro Bellanova precisa che l'emendamento è solo una riformulazione di quanto concordato. Insomma, siamo alle schermaglie, alle liti, e spunta, racconta su Repubblica, l'ipotesi: può tornare in azienda solo chi è accusato ingiustamente di reati. Ecco qui che c'è la formulazione hard e la formulazione soft. Delle due ipotesi di chi può rientrare in azienda dopo che è stato licenziato. Discussioni, dibattiti. Intanto c'è poco da dibattere quando si parla di stipendi degli statali. Il ministro Madia ieri l'ha ribadito incontrando i sindacati di fronte alla Camusso, ha detto: nessuno verrà licenziato, ma per il sesto anno consecutivo, credo di non sbagliare, sesto anno, non ci saranno aumenti e scatti anche per il 2015. Non ci sono i soldi, cari dipendenti statali. Ora potete vedere il bicchiere mezzo pieno, e cioè il nessuno verrà licenziato, cosa che nel privato non esiste, oppure potete vedere il bicchiere mezzo vuoto e dire: beh, insomma, però sono anni che non ci aumentano lo stipendio. Caro Mauro Meazza, tu come lo vedi questo bicchiere? Io vorrei che ci fosse un po' d'acqua da bere più che altro dentro, però. Vabbè, dai, buongiorno. Adesso non esageriamo. No, perché stavo così meditando a proposito di Jobs Act, eccetera. Tra parentesi, oggi riferiamo sul Sole 24 Ore che c'è anche un problema che si sta creando per i lavoratori dei call center. Parliamo di 35.000 persone. Anche questi lavoratori, con il superamento dei contratti a progetto, il contratto a tutte le crescenti, insomma, tutte le cose di cui dai conti racconto così bene ogni mattina, caro Alessandro, ecco, però qui si creerà un altro problema per il Jobs Act, di tutto rispetto naturalmente, come quello dell'articolo 18, però c'è anche questo aspetto qua. Ne parliamo oggi appunto nelle pagine di lavoro. Così come hai visto ci sono 835.000 cause civili da sfoltire dalla precedenza, cioè c'è un piano del Ministero della Giustizia per affrontare questo annoso arretrato, direi pluridecennale arretrato della giustizia, che insomma cerchiamo di superare con questo piano. Va bene, oggi è martedì, sì. Quindi parliamo di tasse. Condominio, no. Condominio. Anche di condominio naturalmente, però soprattutto parliamo di tasse perché, come sai, il martedì e il giovedì sul Sole 24 Ore accompagniamo alla scadenza del versamento il primo dicembre, quindi oggi parliamo dei contribuenti cosiddetti minimi, ma non è un giudizio di valore, significa solo che hanno un reddito più basso, e anche parliamo di fusioni e scissioni. Però se tu avessi delle domande da fare, sì, puoi scrivere ai nostri esperti. Quello con la stanghetta, la stanghetta adesso. Scusate. Bravissimo, bravo, vedo che ti ricordi. Mi ricordo la stanghetta. Sole24ore.com, stanghetta, però quelli bravi dicono slash, pagamenti, okay. Dopo la stanghetta scrivi pagamenti, cerchiamo di dire slash però, perché oggi abbiamo anche una notizia interessante su Facebook, sai che in molte aziende Facebook non vogliono che si usi, e adesso di lavoro, beh. Beh, insomma sì, perché anche perché poi uno così coltiva le sue amicizie anziché lavorare, che non è carinissimo, però quel geniaccio di Zuckerberg dice, beh, allora noi facciamo Facebook at work, che vorrebbe dire al lavoro, me lo sono fatto dire prima da una mia amica che sa l'inglese, e così riusciamo a posizionarci anche in azienda. Ma tutti i particolari, caro mio, non su norme tributi, no. Ma sulle pagine di finanza e mercati, caro mio. E poi una buona notizia, la vuoi una buona notizia alla fine? Dal 1 gennaio c'è un nuovo sistema per obbligare la pubblica amministrazione a pagare i suoi debiti. Chi non paga, chi non paga i fornitori non fa neanche le assunzioni, punto e basta. Ti spiega tutto Gianni Trovati? Questa volta sì, sulle pagine di norme e tributi. E dove se no? Va bene, allora, intanto che ci avviciniamo a una partita abbastanza importante, mi sembra, domenica, perché riprende il campionato. Sì. Ah, ma non ne vuoi parlare, ti sento reticente. Vabbè, allora fermiamoci qui per il momento. Traffico. Forza Alessandro, l'unico Milan che non perde mai. Effettivamente un po' è così, cara ascoltatrice, grazie, che bello, che bella energia, che bello, come ovo maltina al mattino, benissimo. Allora, sui giornali c'è molto di cronaca internazionale riguardo a quello che è successo in Siria, cioè la decapitazione di un ostaggio occidentale, di vari soldati siriani, ma soprattutto quello che ha colpito tutti i giornali occidentali è che emergono altre figure insieme a Jihadi John, così è soprannominato quel cittadino britannico convertito all'Islam e che fa parte degli sgozzatori. Ora sono apparse altre due persone, una delle quali è stata identificata nel francese Maximo Char, 22 anni. Anche lui avrebbe partecipato alle esecuzioni. Un altro dovrebbe essere, perché il padre dice di averlo riconosciuto, poi ha smentito, Nasser Mutana, 20 anni, cresciuto a Cardiff, in Galles. E insomma, vedere che anche due occidentali, due ragazzi cresciuti in mezzo a noi, in mezzo ai nostri figli, siano ora lì a combattere e a sgozzare in nome di questa guerra assurda, c'è da dire che fa molto specie per tutti i giornali. Identificati boia stranieri dell'ISIS, tra loro un gallese e due francesi, sono due secondo il Corriere della Sera. Quegli occidentali tra i carnefici dell'ISIS. C'è anche un commento di Adriano Sofri che vi segnalo a pagina 16 e 17 di Repubblica, ecco i volti dei ragazzi convertiti alla morte. Ovviamente tutti raccontano come fossero ragazzi normali, mediamente istruiti, anzi con un'istruzione superiore alla media. Tutti ragazzi che normalissimi, che a un certo punto della loro vita hanno creduto fermamente in una nuova causa. Non c'è ovviamente nulla, ma la notizia è, e ci saranno nuovi dettagli nel giornale radio di pochi minuti fa, c'è stata questa mattina invece a Gerusalemme un attacco a una sinagoga con persone con accette e coltelli che si sono scagliate sulla folla, sono state uccise, ma prima hanno ucciso a loro volta almeno 4 persone. Però ci sono anche molti feriti gravi. Questa è una vicenda proprio di questa mattina, di mezz'ora fa. Ma torniamo alle notizie di cronaca italiane. Mi ha colpito che cosa? Sul Corriere della Sera raccontano la storia di questo ragazzo che dice: sono stato 14enne, sono stato percosso dal maestro in classe, che il maestro e professore che mi ha detto, mi si è avvicinato siccome ero poco attento alla lezione, ha detto: essere gay è una brutta malattia e tu ne sai qualcosa, al che io gli ho risposto: sì, da quando conosco lei. E lì il professore avrebbe, ci sono le testimonianze dei compagni, dato 2 pugni sulla spalla, 2 calci alla gamba e poi gli ha stretto una mano attorno al collo al ragazzo. Si parlava di gay, il prof mi ha colpito, ora ho paura di tornare a scuola in attesa delle inchieste, eccetera. Intanto questo professore continua a insegnare. Ora viene raggiunto anche dal Corriere della Sera, è successo tutto ad Assisi, e questo maestro dice: ma che colpito, ma figurarsi, non gli ho fatto niente, ha un ematoma questo ragazzo, ma se lo sarà fatto da solo, non so come se lo sia fatto. Eppure ci sono testimonianze, i compagni, querele, controquerele. Sta di fatto che diventa un intrigo internazionale quello di un fatto che sarebbe successo a scuola, in classe, davanti agli occhi di tutti. Sta di fatto che il Corriere della Sera torna su questa vicenda, mentre il giornale fa una campagna a dire: ma com'è possibile? I tagli e gli accorpamenti delle testate in Rai. Maurizio Caverzan, pagina 8, è un cavallo di battaglia del direttore generale Gubitosi. Sapete che è successo? Ieri, immortalato da una foto del giornale, c'erano, al seguito di Renzi, in Australia, TG1, TG2, TG3, Rai News 24 e Radio Rai. 5 microfoni, con 5 troupe, spianati sotto il viso di Matteo Renzi e immortalati dalle foto. Il giornale si chiede: non si placano le polemiche, lo scandalo di 5 inviati di 5 testate diverse in Australia. Ma il piano Gubitosi è stato fermato dal Parlamento. Oggi il grillino Fico, che è il presidente della Commissione Vigilanza Rai, incontra i CDR, cioè le rappresentanze sindacali alla RAI, e chissà, intanto per il momento 5 inviati, sciambola per seguire Matteo Renzi. Potremmo proporlo anche qui a Radio 24: direttore Roberto Napoletano, mandane almeno, noi ci accontentiamo di 3 inviati in Australia il prossimo giro, il giro di Renzi. 3 mi sembra un numero abbastanza accettabile. Allora, invece, il Messaggero racconta, pagina 14, come il Papa e il Vaticano sia pronto a una riffa, una lotteria per aiutare i clochard. Tutto ciò che verrà ricavato verrà dato ai clochard. È una lotteria, la riffa di Francesco, per raccogliere fondi da donare ai poveri. Il Vaticano vuole finanziare i progetti destinati ai clochard. La lotteria avrà come premi i regali fatti al Papa. Il primo premio è una panda. La panda. Stai a vedere che è quella del sindaco. No, non è la panda rossa del sindaco Marino, ma è una panda 4x4 bianca regalata al Papa. Poi biciclette, c'è anche un tandem tutto bianco, bellissimo, ritratto dal Messaggero. Una videocamera digitale, insomma, tutto ciò è una lotteria, fondi che verranno raccolti e dati ai clochard. Ma siamo al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Oggi vince il giornale che mette in prima pagina Luigi Mascheroni: quando i cappelli fanno la storia. Chi sarebbe Napoleone senza il cappello bicorno? E Garibaldi senza la berretta floscia? E Che Guevara senza il basco nero? Ma chi se ne frega! 24 mattino. Sono le 8 e 18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qui. Allora, le cronache dei giornali sono piene ogni giorno di per esempio, notizie di persone indigenti pizzicate magari a rubare qualche busta di prosciutto o una scatola di tonno in un supermercato. Questo avviene quotidianamente. Non lo so come voi la pensiate in questi casi, cioè se sia un reato da punire e come, che sia un reato questo certo, ma da punire e come. Il dato di fatto è che anche di fronte a una denuncia per questo e per una serie, una tipologia di reati, la giustizia alla fine non farebbe il suo corso, anzi si andrebbero a ingolfare e a rallentare già quelle macchine farraginose della giustizia italiana. E allora ecco che qualcuno sta pensando a una soluzione. Quel qualcuno è il ministro della giustizia Orlando, che ha pronto un decreto legislativo che viene già anticipato da alcuni giorni dai giornali, che introduce che cosa nel codice penale? La non punibilità per particolare tenuità del fatto. Attenzione, non è che si depenalizzano i reati rimangono, ma si stabilisce che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, ovvero la pena pecuniaria solo congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando per le modalità della condotta e l'esiguità del danno del pericolo l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Ora, traducendo da tutto questo, di questa perifrasi, il che vuol dire che forse si introduce il fatto che se uno ruba una scatola di tonno in un supermercato, insomma, non è una cosa, è una cosa tenue, è una cosa di una non particolare gravità, per cui non è punibile. Ora ci vogliamo chiedere se questo non sia, come dire, un arrendersi, un anche quasi incentivare a fare una certa tipologia di reati, ma lo facciamo discutendone serenamente intanto con una professoressa che ha fatto parte di quella commissione che era stata istruita per la verità dal ministro Cancelliere della giustizia, che ha poi portato alla proposta di questo decreto. È la professoressa Antonella Marandola, che insegna diritto processuale penale all'università LUM di Bari. Buongiorno professoressa, eccoci qua. Ci sente? Sì, no adesso ci sente. Ci sente meglio? No, vogliamo allora vogliamo ripristinare il collegamento. Ma ci sente lei, professoressa? Grazie. Grazie. Sì. Vabbè, adesso ci sente, professoressa? Sì. Ci sente, benissimo. Allora, professoressa, ci faccia capire, perché sul messaggero, per esempio, raccontavano così: se uno ruba una bicicletta e questa cosa viene considerata una cosa, insomma, non è un recidivo, non è uno che è un ladro seriale di biciclette, ma sì, si può far passare come una cosa che ha una particolare, una particolare gravità, e quindi potrebbe finire tutto in cavalleria. In pratica, se la mettiamo così, è troppo brutale? No, diciamo che in realtà è un pochino risistemato, nel senso che a un certo punto occorre prendere atto che nel nostro sistema penale processuale ci sono delle cause, appunto, di mancata efficienza, legata, diciamo, delle cause reali, fra le quali una certa ipertrofia legislativa, diciamo così. C'è una crescita esponenziale di nuove figure di reato, come è noto, e in una società complessa e avanzata come la nostra, certamente i reati e la loro, diciamo, configurazione da parte del legislatore, quindi la legge, sanziona molto di più le nostre condotte. È chiaro che però nel momento in cui aumentiamo questi fattispecie di reato, il sistema deve reggere, il sistema processuale deve punire questi fatti. Sì. E a un certo punto questa, diciamo, punibilità è un po' messa in crisi, perché aggraviamo sicuramente il processo, si allunga il tempo del processo, si rende molto più gravoso il lavoro delle forze di polizia, dei pubblici ministeri e dei giudici. Sì. Dunque abbiamo cercato, attraverso le varie commissioni, ora non solamente la mia, in questo testo che lei appunto sta esaminando, devo essere onesta, la paternità appartiene alla commissione presieduta dal professor Palazzo, istituita dal ministro Orlando con appunto il 27 maggio di quest'anno, proprio per elaborare delle proposte in tema di revisione del sistema sanzionatorio. Noi abbiamo un sistema sanzionatorio particolarmente rigido, appartiene al codice Rocco, quindi un sistema particolare. E dobbiamo adeguare sicuramente questo sistema all'attualità, nel senso che la punibilità deve essere un pochino più lieve. Ecco, la lievità è legata anche a un concetto diverso, il rapporto fra il reo e lo Stato. Questo certo, cioè mi faccia capire se uno... punitiva del soggetto che delinque. dovremmo modificare quest'ottica, cioè dobbiamo tener conto che in verità possiamo avere anche un approccio diverso, sì, che l'Europa ci invoca. Però l'Europa ci invoca, cioè mi faccia... vorrei capire, professoressa, mi perdoni, io vorrei capire intanto se lei mi sente, in modo che magari facciamo un dialogo. Sì, mi sente bene, benissimo. Diciamo tramite la radio. Ok, va bene, no, ma tramite il telefono mi può sentire benissimo, dovrebbe essere così. Però le chiedo questo, cioè se io rubo una fetta di prosciutto, se rubo una scatola di tonno, se rubo una bicicletta e lo faccio una volta, secondo lei questa persona dovrebbe essere punita? No, mi sembra di capire, perché tanto... No, diciamo che appunto le varie riflessioni del sistema penalistico processuale porta a ritenere che questa sia, se condotta isolata, se ripeto è occasionale, certamente non reiterata, e scarsamente offensiva, cioè evidentemente c'è un reato, questo sì, non si può negare, questa è la scelta che si è fatta, questo sì, con maggiore trasparenza rispetto a comunque delle scelte di priorità che vengono fatte nel nostro sistema. È inutile negarlo, insomma, ci sono purtroppo le procure che sono tenute per la gravosità e l'enorme carico di lavoro a cui devono temperare. Dare precedenza, certo, ad alcuni reati, è chiaro, dare precedenza ad alcuni a mettere in coda ad altri. Però il concetto è che non dovrebbe essere punito, perché tanto non viene punito. Ma lei capisce che però il messaggio che arriva ai cittadini, alcuni, un messaggio potrebbe essere anche pericoloso, come dire, rubate pure se lo fate una volta, per carità, se non siete recidivi, ma rubate pure una volta una bicicletta che tanto non succede nulla. Non è così, non è che non viene punito, si dà al giudice un incarico, quindi il giudice che applica il caso concreto viene rimesso al giudice, il quale, sentito il pubblico ministero e sentita la persona offesa, quindi la vittima, diciamo così, del reato, può, ove ritenga che ci sono gli estremi che appunto sono stati disegnati in questo schema di decreto delegato in modo molto opportuno, quindi anche diciamo con una certa coerenza, ove ci sia la particolare, ripeto, tenuità dell'offesa, cioè la modalità della condotta non è appunto particolarmente rilevante, e l'esiguità del danno, e non ci sia l'abitualità del comportamento, il giudice, sentiti i protagonisti, sì, possiamo dire così, della vicenda, può decidere, il pubblico che ci rappresenta come Stato e la vittima, potrebbe appunto mandare a processo. In sede archiviativa e archiviazione successivamente. Quello che probabilmente allarma i più, e quindi l'eco di questa scelta, che ripeto è una scelta ponderata, da tempo maturata, c'è una larga convergenza politica, è stata presentata fin dal 2006 dalla Commissione Riccio, ma parte poi da diciamo, scelte politiche anche di segno diverso da quella appena citata. E questo, che ad un certo punto si può certamente agire a tutela delle vittime con forme diverse, per esempio l'ampliamento dell'area dei reati punibili a querela di parte, stabilire delle condotte riparatorie, quindi un risarcimento, sì, risarcimenti di tipo civile. Successo. No, ma è chiaro, ci sono, possono essere anche dei risarcimenti di diverso tipo. Però mi lasci introdurre un altro ospite, che è Marco Strano, presiede un centro studi per la legalità, la sicurezza e la giustizia, Crime Café, è un criminologo e anche un funzionario di polizia, che saluto. Buongiorno Strano e benvenuto. Sì, buongiorno. Allora, lei, le faccio intanto questa domanda, più che da criminologo, funzionario di polizia, cioè l'idea che una certa tipologia di reato non vengano più considerati punibili, rimangono ma non vengono considerati più punibili, la trova giusta da operatore delle forze dell'ordine, che dice probabilmente si arrestano delle persone che poi non andranno mai a processo, non andranno mai, oppure è un messaggio sbagliato? Ma guardi, innanzitutto io, tra l'altro, essendo un dirigente di un sindacato di polizia, sì, dell'UGL, ho la possibilità di parlare con molti miei colleghi che in qualche modo e poi rappresentano, no, la situazione rispetto a tutto ciò. Allora io faccio una premessa, io sono assolutamente d'accordo con la professoressa sul fatto che si è arrivati a una situazione dove di fatto per il sovraccarico dell'apparato di giustizia comunque molti piccoli reati vengono archiviati, e quindi era necessario in qualche modo intervenire. E oltretutto il fatto che questa crisi economica generalizzata sta portando molte persone a commettere questi reati, come dire, di disperazione, no? Quindi queste cose che creano poi imbarazzo a tutta la società, no? Il furto dell'anziano, della scatoletta di tonno, quindi era necessario in qualche modo fornire al giudice la possibilità di in qualche modo aggiustare la situazione in maniera non così rigida come un processo e tutto ciò. qualche perplessità c'è, perché io, rappresentando un po' questa comunità di criminologi, di investigatori, ascolto quelli che sono i dubbi che non sono legati al fatto giuridico, ma al fatto che, per esempio, uno dei motivi per cui le persone non delinquono con un approccio criminologico moderno è anche il timore della sanzione. Beh, ma è forse il timore principale, voglio dire, io so, non rubo una bicicletta, primo perché mi hanno insegnato a non rubare, vabbè, ma non tutti pensano così, però anche perché se rubo una bicicletta penso che qualcuno mi prenda per la collottola e mi porti al primo commissariato di polizia, o no? Diciamo che il furto della persona, tra virgolette, cioè il furto della persona che in qualche modo ha timore della sanzione, no? Quindi non di quello navigare. È il cellulare che va e viene, aspetti, perché c'è il cellulare che va e viene, siamo un po' sfortunati oggi con le linee telefoniche. No, devo dire una cosa però, il messaggio, quello che io non riesco a capire, vorrei dare la parola anche al primo ascoltatore, il messaggio, il rischio del messaggio che passi è che se è vero che la giustizia, la macchina giustizia è ingolfata in alcuni punti e quindi c'è qualcosa da sistemare, invece che sistemare la macchina giustizia, perché si è capito che evidentemente non si riesce a sistemare, lo Stato in qualche modo alza le mani, si arrende e dice vabbè, non riusciamo a sistemare la giustizia, allora che facciamo? Dichiariamo non punibili una serie di reati. Ecco, è un po' il principio che porta al condono, dice vabbè, non si può costruire le case abusive, però siccome non ce la facciamo ad arginare questa cosa, sapete che facciamo? Condoniamo. Cioè, mi sembra una resa dello Stato, ecco, questo io la vedo così, ma vorrei sentire Andrea da Milano che ci chiama. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Dica. Sì, guarda, io anni fa ho fatto il direttore di ipermercato in provincia di Milano. Sì. Come direttore avevo quindi la responsabilità anche della sicurezza, direttamente o indirettamente. E per scelta, oltre ovviamente insieme alle direttive aziendali, ho sempre provveduto a denunciare tutti gli eventuali furti riscontrati che il servizio di sicurezza avesse visto. Questo mi ha portato ad andare più di una volta in tribunale, non ultimo l'ultimo caso, per circa 3 anni di rinvio e rinvio per un furto di un paio di punte di parmigiano. E quindi, questa, insomma, questa cosa è incredibile, assolutamente. E le posso dire che alla fine di 3 anni la presunta colpevole, visto che non c'è stata una sentenza definitiva, non si è mai vista in tribunale. Cioè, quanto è durato il processo? 3 anni per il furto? Non lo so, io sono 3 anni che vado, esatto, l'ultima volta mi hanno detto che sarebbe stata l'ultima. Sì. In questi è scaduto il parmigiano nel frattempo. Nel frattempo sì, assolutamente. La presunta colpevole non si è mai vista e addirittura l'avvocato di parte mi ha detto che non l'ha mai conosciuta. Quindi in un certo senso si conferma quello che viene detto, no? Cioè lei dice, quindi a questo punto capisce però, il principio di dire togliamo la punibilità di un reato del genere? No. Nella maniera più assoluta, nel senso che testimonio che è vero, ma come dire, l'esperienza diretta mi dice che soltanto la massima severità impedisce di essere assaltati, impedisce che questi furti aumentino a dismisura. No, è questo che io appunto ho come timore. Sì, che è un'informazione comunque tra le persone che sono portate a delinquere o che hanno un livello di come possiamo dire, di codice etico molto basso, se sanno che non sono punite, comunque i furti lo fanno. C'è da dire, la ringrazio Andrea, questa per la sua esperienza. Devo dire, dopo la pubblicità riprendiamo, ci sono anche altre tipologie di reato per i quali non c'è la punibilità, secondo questo decreto allo studio, non solo il furto appunto della busta di prosciutto al supermercato, ma anche le piccole truffe, il furto semplice appunto, l'abuso d'ufficio semplice, ovviamente sempre che la condotta non sia di tipo seriale, e comunque, come ci sta dicendo la professoressa Marandola, c'è sempre un giudice che può decidere a discrezione e dire no, questa condotta va punita o comunque va perseguita e quindi andare avanti col processo. In alcuni casi però no. Che ne pensate? 800 24 00 24, riprendiamo dopo la pubblicità. 24 mattino. Alle 8.39 siamo riemersi anche noi come dei palombari, eccoci qua ancora in diretta a parlare allora del fatto che non c'è la punibilità, non si vuole inserire la non punibilità di una serie di reati, furtarelli, piccole truffe, soprattutto se chi le fa non è recidivo. C'è da dire che molti ascoltatori dicono questo, ma insomma si crea questo meccanismo per cui allora si può fare quello che si vuole. Chi mi scrive, per esempio, ma scusi, se 100 persone rubano la bicicletta da un negozio, sono piccolo danno, cioè piccolo furto per una bicicletta per ognuno, ma per il negoziante un grandissimo furto. Ma abbiamo spiegato che anche colui che è gestore di un supermercato, che si vede sottrarre di varie buste di prosciutto, può rivalersi in sede civile. Comunque il timore è questo, che si abbassi la soglia di rischio di essere beccati e quindi di incentivare ai reati. Comunque, Michele da Bologna, buongiorno. Michele, non c'è la linea. Luca da Asti, buongiorno. Oggi i telefoni sono la roba più incredibile del mondo. Luca, buongiorno. Sì, buongiorno. Io sono contrario, molto contrario, perché uno può vivere senza bicicletta, senza telefono, quindi non è assolutamente un bene di prima necessità. Questo punto primo. Secondo, se uno ha bisogno è giusto che chieda e che gli sia dato, ma non che gli sia dato. Se uno non ha i soldi per comprare un pacco di pasta, no, sì, certo, ci sono persone che fanno volontariato, però allora ci sono volontariato, ci sono i Caritas, cioè, i supermercati sono pieni di roba che scade, non la tolgono il giorno dopo che è scaduta, il giorno prima, quel giorno stesso può essere riutilizzata e data a chi ha bisogno. Poi penso che io penso che qualunque direttore di supermercato, se gli si presenta una vecchietta e dice abbia pensato, ho bisogno, la vede una volta, gliela dà qualcosa, sì. Non penso. Vabbè, che solo sia. Che qui ci sono anche reati tipo piccole truffe, cioè altre tipologie di reati, piccoli abusi d'ufficio. Comunque vorrei chiedere ancora a Marco Strano, visto che ieri il Sole 24 Ore diceva che c'è un'escalation di furti e borseggi, dai dati del Viminale sono aumentati soprattutto i furti nelle case e gli scippi più 12% sulle strade, gli scippi nei confronti delle persone rispetto all'anno scorso. Le chiedo, Strano, sono collegabili i due fatti oppure no? Non capisce tutti coloro che dicono tutto ciò incentiverebbe un aumento dei delitti e dei reati. Ma guardi, io credo che tutto ciò incentiverebbe un aumento dei reati. Purtroppo questo provvedimento esce in una fase in cui i numeri dicono che c'è un aumento di un certo tipo di criminalità che poi viene chiamata dai politici come bagatellare o di piccolo profilo, ma per chi la subisce in realtà, cioè vedere subire un furto in casa o uno scippo è una cosa che porta delle conseguenze gravissime. E in più c'è un altro fatto, che un fenomeno che è stato registrato quasi in tutta Europa è di una criminalità predatoria da parte di cittadini stranieri che vengono nel territorio italiano, commettono qualche reato e poi se ne ritornano a casa loro. Non con un atteggiamento razzista, dico questo, ma è un dato, è un funzionario di polizia. Non solo, ma a parte i dati, ma poi alcuni delinquenti poi si vantano in qualche modo già da anni di trovare in Italia una situazione particolarmente favorevole, nel senso poco pericolosa rispetto ad altre nazioni europee. Quindi che ci sia un timore che tutto questo possa, consideriamo che molte persone non hanno la sensibilità e capiscono che differenza c'è tra reato perno e prima volta, si spargerà la voce che... Sì, come dire, venite in Italia, il rischio un pochino c'è. E questo va considerato. E poi l'ultimo aspetto è la valutazione del reato tenue, può essere anche qualcosa considerata dal delinquente in qualche modo per dire è una cosa tenue, in realtà non lo è, in altre parole rappresenta un'ulteriore giustificazione. Quindi insomma perplessità ci sono, ma per esempio una delle perplessità è questo, poi vorrei introdurre anche un altro ospite, il professoressa Marando. Lei ha detto appunto la persona, la parte offesa si può rivalere in sede civile, quella giustizia civile che ha 800.000 cause arretrate e quindi insomma si va sempre a creare quel gatto che si morde la coda, una soluzione sembra che mai non ci sia. Potrebbero essere, nel senso che credo che sia in realtà emerso anche da chi appunto è intervenuto, che il ricorso al diritto penale, quindi al processo, che noi consideriamo sempre uno strumento opportuno ma sovradimensionato, risulta in realtà poi del tutto inefficace rispetto all'obiettivo che ci stiamo perseguendo. Cioè la sanzione penale è puramente un intervento simbolico, da quello che gli esperti e quindi chi sul campo ha appunto applicato poi quello che si presume, cioè l'idea di una, diciamo, sanzione punitiva di quella penale. La sanzione penale in realtà è uno degli strumenti, questo è quello che probabilmente anche questo intervento vuole significare, cioè accanto a questo, devo dire la verità, si potrebbero e si stanno introducendo sanzioni amministrative, sanzioni civili, poniamo delle sanzioni disciplinari, cioè in verità il disegno di legge si muove in quest'ottica, ecco, quindi io lo leggerei in un più ampio contesto, la cornice più ampia di solo, diciamo, questo testo, si pensi insomma è stato introdotto il lavoro di pubblica utilità, vale a dire dovremmo attivare delle strumentazioni che sono appunto capaci di raggiungere l'obiettivo. Quello che si è detto è che noi non siamo capaci col processo di realizzarlo. Ma questo certo, però invece quindi, cioè, è quasi una missione di dire non riusciamo a sistemare le cose come stanno e dobbiamo quindi trovare una scorciatoia, dobbiamo trovare una soluzione alternativa. Questa è la mia perplessità e di molti ascoltatori. Comunque vorrei salutare un sindaco che abbiamo avuto ospite anche qualche tempo fa, è Damiano Zecchinato, sindaco di Vigonovo in provincia di Venezia. Buongiorno e ben ritrovato, sindaco. Buongiorno. Perché lei fece notizia quando qualche tempo fa disse: se io trovo qualcuno che ruba qualcuno indigente, ovviamente non un farabutto, ma qualcuno che va a rubare una fetta di prosciutto in un supermercato, pago io come comune, o meglio a spese personali, piuttosto che far denunciare. Beh, ditemelo, cari forze dell'ordine, metto io i soldi e chiudiamola qui. Ha visto che adesso si vuole in qualche modo non punire più questa tipologia di reati? Sarà contento? No, assolutamente no. Sono due cose completamente diverse. Allora, la non punibilità di un reato, secondo me, non è corretta. Diversamente, sono quei reati, sono tutti intanto reati cosiddetti minori, di cui sembra che la giustizia voglia disfarsene per non appesantire l'iter giuridico che ci stanno nelle aule del tribunale. Diversamente, quello che io dicevo, questi reati minori per delle esigenze che sono dei poveri cristi, molto spesso sono dei pensionati, delle persone anziane, quelli che sono caduti in disgrazia, che hanno perso il posto di lavoro, che hanno qualche famiglia, che proprio non ce la fanno a vivere, che non hanno neanche il minimo vitale, che noi non siamo a conoscenza né come servizi sociali né come comune. Sono successi dei casi dove chi ha detto è inutile intasare aule del tribunale o perseguire queste persone, piuttosto segnalatele a noi, pago io personalmente, sono danni che si attirano. Quindi sapere che queste persone non verranno più punite. Esigenze. Sono d'accordo con uno delle persone che sono intervenute prima, che magari si può creare, sono alimenti che stanno in scadenza, che qualcuno si potrebbe anche essere un attimino più generoso, questi supermercati, questi negozi che hanno questi prodotti in scadenza potrebbero anche pensare di darli alle persone che non hanno più bisogno, ma succede anche così, perché non è che vanno proprio buttati. Però lei, sindaco, purtroppo, dice invece gli altri tipologie di reati devono non solo rimanere e rimarranno, ma devono essere perseguiti. Ma secondo me, credo siamo tutti d'accordo, secondo me pensare di non perseguire i reati cosiddetti minori, credo sia la cosa più sbagliata, diamo un pessimo esempio se vogliamo seguire questa linea, ma assolutamente no, non sono d'accordo, perché sì, si incrementa e si incentiva anche la potenzialità criminale dei piccoli furti e quindi non sei perseguibile, per cui si incentiva a commetterli. No, questo è il dato di fatto che emerge un po' da tutti i nostri ascoltatori, devo dire, che sono intervenuti, e ci sarà forse spazio anche per un altro ascoltatore. Io però nel frattempo devo ringraziare e salutare tutti i miei ospiti. Dopo il traffico avremo invece un sindaco di una piccola città che abbiamo trovato, che ha fronteggiare la questione del maltempo. Si può parlare delle grandi città, ma noi abbiamo scelto una situazione piccola dove ci sono ancora dei disagi notevoli. E intanto ringrazio tutti gli ospiti e il traffico, e rientriamo. 24 mattino. Allora vorrei sentire Elio da Lecce, che era lì da un po' di tempo su questo tema. Elio, buongiorno. Niente. Renzo da Lucca, buongiorno Renzo. Buongiorno dottor Mila. Dica. Io volevo portare a conoscenza che se per disgrazia la giustizia arriva a buon fine, no? Per la parte lesa, cioè per quello che subisce il furto, contro da una persona che praticamente non nulla tenente, cioè un poveraccio, sì, morto di fame, la parte lesa si paga tutte le spese. Certo, e se mai arriva ad avere un risarcimento civile, oggi leggiamo appunto che sono 800.000 cause di civile arretrata, cioè vai nel civile a chiedere un risarcimento, vai nel civile, 800.000 cause arretrate. No, mi sembra, caro Lenzo, lei ha colto proprio nel segno, mi sembra tutto un po' una mezza follia, ma capisco insomma che bisogna risolvere i problemi. Per esempio, uno dei problemi è quello del maltempo. Io voglio salutare un sindaco, si sentono i sindaci, tanti sindaci di città grandi. Mirko Ferrando è il sindaco di Mele, in provincia di Genova. Buongiorno sindaco. Buongiorno. Quanti buongiorno abitanti fa Mele? Circa 2.800 abitanti. 2.800, di questi so che c'è una situazione ancora con famiglie isolate. 25 famiglie. Cioè isolate, che vuol dire? Mi faccia capire, isolate? No, sono totalmente isolate, hanno un problema di una grande frana sulla loro strada di accesso alla frazione, per cui non riescono a muoversi con i mezzi di proprietà. Ma però possono muoversi a piedi attraverso chiaramente dei sentieri di campagna non facili, però comunque non sono totalmente isolati. Siamo ai sentieri di campagna. Senta, lei è sindaco di una piccola realtà, di una piccola cittadina, come vede tutta questa questione del maltempo? Ha sentito per esempio che adesso dal governo promettono si può sforare il patto di stabilità, sì, soprattutto soldi per le grandi città soprattutto, poi sì, magari arriveranno anche per voi. Come la vede, insomma, che arriva la pioggia e i piccoli paesi o i grandi paesi franano? Arriva la pioggia che non è più la pioggia a cui eravamo abituati, ma è ben altro, e quindi e questi eventi tra l'altro si ripetono, specialmente in Liguria si sono ripetuti nel giro di due mesi almeno 3-4 volte, e quindi c'è una situazione climatica non diversa. Ma lei dice, oppure è il clima, insomma, è il clima che è cambiato? No, non è, cioè, sicuramente il clima ha qualcosa di diverso, certo che siamo a novembre e qua in Liguria abbiamo ancora quasi fine novembre 18, 19, 20 gradi di temperatura, quindi c'è qualcosa che non quadra, insomma. Poi può anche essere quest'anno e l'anno prossimo non essere più così, ma ormai queste cose succedono tutti gli anni, quindi credo che sia ormai una cosa sistematica. Però poi c'è un problema di degrado del territorio che è evidente, ma questo evidente in cosa? Questo, cioè lei in cosa lo vede questo degrado? È evidente perché purtroppo, io parlo della Liguria chiaramente, non abbiamo più un'agricoltura molto diffusa, di conseguenza il nostro territorio che è scosceso e che scende in maniera molto, diciamo, evidente, insomma, ci sono le colline, evidente, sono montagne. No, colline molto, esatto, se passiamo dalla montagna al mare nel giro di pochissimi chilometri, una volta i contadini avevano l'abitudine in Liguria di fare i terrazzamenti che poi proteggevano i centri abitati. Abbiamo voluto andare a vivere tutti nelle città. Esatto, e questa cosa, l'abbandono della campagna dei piccoli comuni che stanno nell'entroterra della Liguria, alle spalle del litorale, ha portato a un rimboschimento dei terrazzamenti, ma che poi se non curato chiaramente porta al disastro. Ma mi faccia capire in conclusione, un piccolo sindaco cosa può fare per farsi sentire? Lei adesso ha 25 famiglie isolate, più o meno isolate, sì, e quindi? Quindi se la cava da sola, se la vede, se la... Ce la caviamo in buona parte da soli, in buona parte, per carità, la regione Liguria chiaramente è stata molto presente in questi giorni, ma il problema viene dopo, perché nell'emergenza tutti pronti. E comunque anche noi ci siamo attrezzati negli anni, abbiamo una squadra di protezione civile molto attiva, tutti volontari. Però poi chiaramente nel momento in cui succede un disastro come è successo a Mele, con 25 famiglie isolate, lì dato una valutazione dei geologi abbiamo già capito che la spesa sarà dai 500.000 euro in su. Dai 500.000 euro in su, che per un piccolo comune immagino sia una spesa notevole. Va bene, mi fermo qui e la ringrazio. Sindaco di Mele, in provincia di Genova, Mirko Ferrando. 25 famiglie sono praticamente quasi isolate, a parte Viottoli di Campagna, per una frana. Ringrazio Lorenzo Nespoli in redazione insieme a Alessandro Longoni ed Elisabetta Fusconi e il nostro Peter Vescapè in regia. L'appuntamento è rinnovato come sempre a domani 6:30 puntuali. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 mattino.